Sai, crocifisso, se ti va bene, ti daranno 40 anni di prigione. Lasciano libere le iene, a te bruceranno le parole. Hanno paura di chi smuove le acque, la coscienza mette a nudo le cose giuste. Hanno paura di ogni singola persona che possa davvero cambiare la storia. Non si dovrebbe delegare la propria rivolta a chi promette solo vendetta. Non si può mettere tutto il mare in un pozzo, in un bicchiere. Le aquile sposano il vento, il vento le tradisce col fiume, il fiume partorisce le onde, le aquile tornano alla sorgente. Gli alberi cercano la luce per le loro foglie, per la loro pace. Le madri sono la tua terra, splendida sarà la tua battaglia. Chi vuole seminare grano, non chieda niente a nessuno, perché il tuo cibo sarà pane per gli uccelli, perché il tuo viso non teme gli sciacalli. Chiudi gli occhi, è meglio non sentire quello che non potranno mai vedere. Chiudi gli occhi, è meglio non vedere quello che non potranno mai sentire. Grideranno le loro calunnie nelle piazze piene di vuoto. Non lasciare nemmeno un centimetro a chi sputa veleno e fuoco. Forza è sapersi controllare, gridava il maestro al suo alunno migliore. La migliore cosa che tu possa fare è seguire il tuo splendido cuore, il tuo splendido cuore, il tuo splendido cuore.